want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesco. Buon pomeriggio a tutti voi in contatto con Radio 24, buon pomeriggio e buon Natale da Gegè Telesforo. Questo è un altro appuntamento con il Soundcheck, la nostra prova del suono. Ieri abbiamo dato il via a una serie di puntate natalizie che ci accompagneranno con la grande musica di Radio 24 fino al 6 di gennaio. E se ieri abbiamo dato il via alle feste con il gospel di Kirk Franklin, il numero uno del gospel contemporaneo, la puntata di oggi la dedichiamo ad alcuni eroi della soul music. E quindi partiamo con The Genius Ray Charles, nato il 23 settembre del 1930 a Albany. Ray Charles è stato cantante, sassofonista, pianista, arrangiatore, compositore, considerato uno dei pionieri della soul music, nonché uno dei musicisti più importanti di tutti i tempi. Seppe coniugare sonorità diverse, dal rhythm blues al jazz, dalla musica country al soul. Qui Ray Charles dà il via al nostro Natale con un suo successo intitolato Mess Around. Now you see that girl with that diamond ring. She knows how to shake that thing. Mess around. I declare she can mess around. Ah, mess around. Everybody do the mess around. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. La voce di Ray Charles, The Genius, per festeggiare il Santo Natale con I Got a Woman. Ray Charles non nacque cieco, iniziò ad avere problemi con la vista a 5 anni e divenne completamente cieco a 8. Lui stesso non capì mai chiaramente il motivo del suo handicap. Alcune ipotesi affermavano che era dovuto a un glaucoma, secondo altre il motivo era un'infezione mai curata causata dal contatto con acqua saponata. Frequentò quindi una scuola per sordi e ciechi in Florida dal 37 al 45 e fu qui che imparò a comporre, a suonare vari strumenti, dal pianoforte al sassofono, e a sviluppare il suo dono musicale. Ray Charles affinò così col tempo progressivamente uno stile personale che lo portò a miscelare una combinazione di vari generi musicali, fra cui il gospel e il jazz, con incursioni nei ritmi afro-cubani come in questo blues intitolato Mary Ann. Well now, oh Mary Ann, you know you sure look fine. Well now, oh, oh, you know you sure look fine. Sound check. Il suono della musica. E nel 1959 in molte radio americane viene trasmessa la canzone What I Say, che diventa così un grandissimo successo. Dopo essere stato a lungo conosciuto negli ambienti del rhythm blues, proprio con questo brano Ray Charles riesce finalmente a ottenere popolarità anche nell'ambiente della pop music, contribuendo anche all'affermazione della soul music. La canzone What I Say è stata nominata come la decima migliore di tutti i tempi nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone. E adesso Ray Charles in un altro classico intitolato Hit the Road Jack. Hit the road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road Jack, and don't you come back no more. What you say? Sound check. Il suono della musica. Oh, I know. Hallelujah, I don't know. Yeah, hallelujah. I know. E per la terza volta Ray Charles nel 1965 viene arrestato per possesso di eroina, ma evitò la prigione riuscendo a disintossicarsi in una clinica di Los Angeles. Passò quindi il 1966 in libertà vigilata, mentre il suo singolo Crying Time raggiungeva la sesta posizione delle classifiche. Il brano vinse anche il Grammy Award per la migliore performance vocale del Rhythm Blues del 1967. Ray Charles è stato sposato due volte, ha avuto 12 figli da 7 donne diverse e aveva una grande passione per gli scacchi. E chiudiamo questa prima parte con la musica di Ray Charles con un suo grandissimo successo, Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Soundcheck, il suono della musica. E in questa giornata di Natale qui al Soundcheck di Radio 24 non poteva mancare un grande classico di Otis Redding come Sitting on the Dock of the Bay, brano postumo. Pensate che Sitting on the Dock of the Bay fu registrata solo 3 giorni prima della morte di Otis Redding, che insieme a 6 compagni rimase ucciso quando l'aereo su cui viaggiavano precipitò nel lago Monona a Madison, nel Wisconsin, il 10 dicembre del 1967. Sitting on the Dock of the Bay entrò nella memoria collettiva dall'anno seguente, diventando il primo grande successo di Otis Redding, il primo singolo a raggiungere il numero uno in classifica e a vendere 1 milione di copie. E fra le grandi interpreti del lavoro di Otis Redding c'è anche Aretha Franklin, qui al Soundcheck di Radio 24 con Respect. Soundcheck, il suono della musica. Ritorno del meraviglioso Donny Hathaway con il suo successo The Ghetto qui al Soundcheck di Radio 24. Puntate speciali piene di musica fino al 6 di gennaio per festeggiare insieme il Santo Natale. E dalla voce di Donny Hathaway a quella di un altro grande pioniere della soul music, Curtis Mayfield. Nato a Chicago, Illinois, Mayfield fu fra i primi di una nuova generazione di artisti e compositori rhythm blues afroamericani a inserire riflessioni sociali nelle sue opere. Questa musica messaggio divenne estremamente popolare durante il periodo di fermento politico e di sommovimenti sociali negli anni 60 e 70. Fra i più grandi successi di Curtis Mayfield c'è Move On Up. Fra gli eroi della soul music arriva al soundcheck di Radio 24 anche Marvin Gaye, che ottenne fama internazionale a cavallo fra gli anni 60 e 70, partecipando alle registrazioni della famosissima casa discografica Motown. Ancora oggi i dischi di Marvin Gaye sono molto richiesti sul mercato e influenzano anche le generazioni più giovani grazie a un suono fresco, sinuoso, ma allo stesso tempo complesso e dotato di una profondità che richiede un ascolto prolungato per essere colta. Ciò che rende l'artista ancora attuale è proprio la forza dei suoi testi, intrisi di temi caldi inerenti alla politica, l'economia, l'ambiente, l'amore e i conflitti internazionali. Per il suo impegno, le sue lotte contro il sistema e il forte richiamo alle radici della musica afroamericana, Marvin Gaye è considerato uno degli artisti più importanti della sua era. Marvin Gaye al soundcheck con Let's Get It On. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo operativi per il soundcheck, la prova del suono di Radio 24 in questo appuntamento speciale dedicato ai grandi eroi della soul music, e possiamo chiudere in bellezza con Mr. James Brown, cantante, ballerino, compositore, arrangiatore, producer discografico, considerato una delle più importanti e influenti figure della musica del XX secolo. È stato uno dei pionieri dell'evoluzione della musica, dal gospel al rhythm blues, dal soul al funk, noto anche con alcuni soprannomi, nomi, alcuni dei quali si era dato da solo, fra i quali Soul Brother Number One, Mr. Dynamite, The Hardest Working Man in the Show Business, Universal James, Funky President, The King of Rhythm Blues e il più noto di tutti, The Godfather of Soul, James Brown, con Papa's Got a Brand New Bag. Come here, sister. Papa's in the swing. And you hear doing his thing. Ain't no drag. Good God, second time. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. No, we need it, soul power. We got to have it, soul power. No, we want it, soul power. Got to have it, soul power. Give it to me, soul power. Hey! We need it, soul power. We want it, soul power. Padrino del funk James Brown con il suo successo Soul Power, e chiudiamo questo appuntamento natalizio con un altro classico del Godfather of Soul, Give It Up or Turn It Loose. A tutti voi buon pomeriggio, buone feste, buon Natale e auguri da Gigi Telesco. Sound check. Il suono della musica.